Allora, buonasera a tutte e tutti. Sono Alessandro Pascale, da qualche mese neo segretario di questa federazione milanese del Partito Comunista. E sono qui per introdurvi questa serata, non solo la presentazione di questo libro, Ucraina tra Russia e NATO, storia, cause e contesto internazionale di un conflitto che sta sconvolgendo il mondo, un'opera di Marco Pondrelli. Marco Pondrelli è insomma non solo il direttore del sito Mars 21, è anche un amico, conosco da anni, e quindi è un grande piacere per me averlo qui e poter presentare la sua opera. Prima poter introdurre la sua opera, prima però di lasciargli la parola vorrei presentare più in generale un attimo due parole sulla situazione politica che ci riguarda personalmente. Noi siamo qui questa sera a fare un incontro che non era assolutamente scontato e i numeri in cui i numeri della presenza di questa sera anch'essi non sono affatto scontati. Se consideriamo che 6 mesi fa, soltanto 6 mesi fa, il partito era ridotto in questa provincia a davvero poca cosa. La situazione attuale del partito è molto delicata. Noi stiamo andando verso un congresso molto importante, che sancirà di fatto una vera e propria svolta sia in campo analitico, per quel che riguarda ad esempio la visione delle questioni internazionali, ma anche la questione dei rapporti con altre forze politiche e non solo sociali, ma è un congresso che vedrà anche un profondo rinnovamento anche umano del partito, e questa sarà una delle grandi novità che insomma, qui anticipiamo. Ora, quello che abbiamo fatto in questi mesi, durante la campagna elettorale e dopo, è stato di lavorare alla ricostruzione, e c'è un gran bisogno. Continua ad esserci un gran bisogno e ci sarà sempre un gran bisogno di un partito comunista. Però deve essere un partito comunista che abbia delle solide basi. Altrimenti, quante volte abbiamo visto organizzazioni di sinistra, perfino che si dicono comuniste, che sono totalmente incapaci poi, non dico di dare risposte concrete, ma perfino di avere una lettura adeguata della realtà. Abbiamo visto negli ultimi tempi, anche durante la stagione della pandemia, e su questo devo ricordare come noi siamo stati l'unico partito che fin da subito ha avuto delle perplessità profonde su quello che stava accadendo, a prendere posizioni contro il Green Pass. A posteriori capiamo meglio tutti i collegamenti di ciò che è avvenuto in questi 3 anni. Ma adesso non stiamo qui a ricordare queste questioni, faremo un incontro specifico su questo. Io dicevo che noi dobbiamo ricostruire su basi solide. Noi abbiamo già ricostituito un collettivo, un gruppo ampio di compagni, partendo praticamente dal quasi nulla, e adesso si tratta di consolidare il lavoro e attirare nuovi iscritti. Non dico solo nuovi compagni, ma nuovi iscritti, perché il senso dell'esistenza del partito è che questo abbia un'utilità nel momento in cui l'organizzazione cresca. Se il partito rimane una piccola comunità, una piccola setta, non serve a niente e la sua azione sarà sostanzialmente inutile agli occhi, anzi inesistente agli occhi delle masse popolari. È chiaro che questo lavoro non si può concretizzare da un giorno all'altro, serviranno tempi medio-lunghi, però noi iniziamo qui con una scuola popolare di formazione politica, proprio con l'obiettivo di trasformare persone semplici che si sono avvicinate, ma volenterose, oneste, che si sono avvicinate a questa organizzazione, in quadri politici, in futuri dirigenti, in futuri compagni capaci di educare e di dirigere, di educare altre persone oneste e volenterose e di dirigere lotte politiche, sociali, economiche e così via. Questo è il senso di questa scuola popolare che chiaramente cercherà di dare da qui a giugno e anche oltre i fondamentali. Abbiamo un programma fitto di incontri, partiamo oggi con un tema di attualità, di geopolitica, di questioni internazionali che ha delle ricadute sociali molto concrete sulla nostra esistenza quotidiana, lo vediamo con le bollette che cominciano a crescere, il caro vita, eccetera, eccetera. Questo è solo l'inizio. Ma noi avremo appunto una decina di incontri in programma, la settimana prossima già. Sabato 28 gennaio alle ore 18 saremo alla Cooperativa La Liberazione in via Lomellina 14 a Milano, chiaramente a parlare dell'attualità ma anche dei problemi del manifesto del Partito Comunista. Ma come problemi? Noi siamo Partito Comunista e parliamo dei problemi del manifesto del Partito Comunista. Sì, perché noi abbiamo una consapevolezza, la nostra forza è ripartire dal marxismo-leninismo, cosa che il resto della sinistra non ha, e questo la rende più arretrata. La nostra consapevolezza è che il marxismo-leninismo è una base da cui ripartire, ma non è più sufficiente. Bisogna andare oltre, bisogna soprattutto aggiornarla, verificarla nella prassi quotidiana e sulla base dell'esperienza storica che si è accumulata nell'ultimo secolo. Per questo non sarà una serie di incontri agiografici di pura teoria, ma ci confronteremo con l'attualità. Questo è, spero, quello che sarà il valore aggiunto che darà questa esperienza. Parleremo e affronteremo, appunto, sempre cercando di mantenere uno sguardo sul presente, le questioni del materialismo storico e del materialismo dialettico. Faremo un'introduzione al marxismo-leninismo e cercheremo di identificare appunto quali sono i punti su cui occorre ragionare per, diciamo, aggiornare l'analisi concreta alla situazione concreta. Poi ci sarà un incontro sull'egemonia culturale e il totalitarismo liberale. Questa è, scusate, una cosa che appunto ho fatto personalmente, quindi ci tengo. Penso che sia un valore aggiunto nell'analisi. Dedicheremo poi un incontro sulle menzogne della pandemia Covid, cercando, lo struttureremo come seminario, cercando di invitare gente qualificata, che ne ha una comprensione adeguata, ne ha avuto una comprensione approfondita. Poi dedicheremo un incontro alla nuova destra in Europa per conoscere il nemico, in prossimità del 25 aprile, sarà la nostra maniera, diciamo, di attualizzare la questione antifascista. Infine la lotta al revisionismo storico, che deve continuare a contraddistinguerci parlando dell'Unione Sovietica, del mito sovietico, da Lenin a Stalin, perché comunque bisogna sempre continuare a ribadire che avevamo ragione noi, e la storia anche le conquiste più recenti lo dimostra. Poi parleremo del grande nemico, la storia criminale degli Stati Uniti d'America, che poi è un tema che si collega benissimo alla serata. A questa serata e che spiega perché il nostro partito non ha avuto fin dall'inizio alcun tipo di dubbio nello schieramento. Magari non l'ha reso subito esplicito, ma perché c'era un timore, ve lo dico, di essere messi fuori legge. Guardate che solo notizia uscita 2 giorni fa su Marx 21 per l'appunto che nella Repubblica Ceca c'è ci sono importanti dirigenti del Partito Comunista che sono sotto processo semplicemente perché hanno osato mettere in dubbio la versione ufficiale borghese della strage di Katyn, la famosa strage delle migliaia di polacchi. Ci sono studi di storici recenti che ormai mostrano, confutano la versione ufficiale per cui siano stati sovietici e ricordano la responsabilità invece dei tedeschi nazisti. Ma non si può dire ormai, nell'attuale Unione Europea dove c'è stata l'equiparazione tra comunismo e nazismo. Questo è il clima e noi dobbiamo tenerne conto di questo clima. Ma appunto, noi finché abbiamo la libertà di dire certe cose, le diciamo. Tutti questi incontri saranno registrati, e al di là delle 20, 30, 40 persone che riusciremo a raggiungere fisicamente, saranno molte di più quelle che ascolteranno quello che avremo da dire. Parleremo poi della storia dei problemi del Partito Comunista Italiano, anche lì c'è molte cose da dire. E anche lì cercheremo magari di non cantarcela da soli, ma di confrontarci anche con esponenti delle altre organizzazioni, perché insomma è chiaro che nella situazione in cui siamo bisogna anche cercare, pur con tutte le fatiche, di provare a ricostruire un tessuto di dialogo con le altre organizzazioni comuniste, per quanto difficoltoso questo sia. E infine, chiuderemo a giugno, per poi riaprire a settembre con altri incontri, parlando della Cina socialista e del pensiero di Xi Jinping, che insomma, dal 20° congresso del Partito Comunista Cinese è uscito come il marxismo del XXI secolo, quindi l'ultimo aggiornamento del marxismo che sta diventando egemone a livello mondiale e quindi va conosciuto. Va bene, io non andrei molto oltre. So che ho già rubato fin troppo tempo, sì, 12 minuti passano e avanzano per quello che bisognava dire. Lasciamo la parola al compagno Quadrelli. Un applauso. Grazie Alessandro, ti ringrazio per l'invito, ringrazio il Partito Comunista per l'invito. Io tra l'altro ho sempre sottolineato l'importanza della formazione, anzi, quando ero giovane e facevo militanza mi lamentavo che mancasse la formazione dentro il mio partito, quindi adesso essere dall'altra parte mi fa piacere, anche se è un carico importante. E prima di iniziare a sviscerare questo problema che ho trattato nel mio libro, vorrei fare una premessa metodologica, perché qualche volta mi sono sentito dire ai dibattiti, si sì, fai discorsi molto interessanti, però che ce ne frega noi della geopolitica, siamo comunisti, noi dobbiamo fare, costruire il socialismo, fare la battaglia, la lotta di classe, eccetera, eccetera. E la risposta l'ha data Alessandro prima quando parlava, no? All'analisi concreta della situazione concreta, cioè l'imperialismo statunitense, come si esplica, come avanza, cosa fa, e come pensare di poter ragionare della lotta di classe senza ragionare sull'economia, no? Come avviene l'assalto dei padroni ai diritti dei lavoratori. Ecco perché serve la geopolitica. Non vuol dire che noi ci limitiamo a fare delle analisi e le lasciamo lì per far vedere a tutti quanto siamo bravi. Facciamo delle analisi che ci servono a fare politica. Ed ecco spiegato un po' il motivo del mio approccio alla materia, perché noi assistiamo ormai da anni a verità buttate sulle televisioni, sui mass media, che ci spiegano che tutti coloro che non sono d'accordo con le scelte dell'Occidente, le scelte degli Stati Uniti, sono dei dittatori, sono i nuovi Hitler, sono pazzi, con loro non si può parlare e da 30 anni a questa parte la parola guerra è entrata nel dibattito politico come forse solo negli anni 30 e 40 c'è stata. Quindi è il tema che mi ha spinto invece a voler costruire un percorso ragionato che provasse a, da una parte, decostruire le menzogne che ci vengono raccontate, dall'altra a provare a capire bene quello che sta succedendo. Io faccio sempre questo esempio in premessa, quando inizio a spiegare quello che ho scritto. Se noi volessimo capire la Seconda Guerra Mondiale e iniziassimo a studiarla dall'aprile del 45, avremmo un quadro ben diverso da quello che abbiamo. In quel caso sarebbe la Germania il paese aggredito ed invaso, e magari come oggi abbiamo quelli che esaltano i bambini ucraini col mitra in mano, qualcuno potrebbe dirci: ma come erano poetici quei bambini tedeschi che con niente in mano affrontavano i carri armati russi. Ecco perché invece noi, quando parliamo della Seconda Guerra Mondiale, non partiamo neanche dal 39, no? L'Ossurdo, Domenico L'Ossurdo, parlava della seconda guerra dei 30 anni, per unire prima e seconda guerra mondiale, la seconda guerra dei 30 anni in Europa. Io quindi per analizzare, tentare di dare la mia risposta rispetto a quello che succede in Ucraina, l'ho preso un po' dalla lontana, cioè sono partito dalla Rus nata a Kiev nel 1989, non nasce da nulla, prima c'erano delle tribù slave, ma in genere si fa risalire lì la nascita della Rus, che qua c'è una piccola differenza linguistica. Noi usiamo la parola, traduciamo con Russia sia Rus che Russia, e quindi per noi russi è la parola che usiamo per tradurre Ruski e Rasinski, cioè Rus e Ruski, che sono invece concetti diversi. La Russia, i russi che abitano nella Federazione Russa sono una cosa, i russi che parlano russo e vivono fuori dai confini russi sono un'altra cosa, ma noi abbiamo solo quella parola per descrivere. Quindi il primo problema è questo. Perché lo dico? Non per così uno sfoggio di sapere, ma perché quando Putin parlò degli ucraini e russi come un unico popolo, si riferiva a questo. Cioè lui non stava mettendo in dubbio che l'Ucraina come Stato debba esistere, semplicemente stava dicendo questo. Poi ovviamente da parte dei giornalisti, degli opinionisti, dei politici italiani c'è sia ignoranza che malafede, però c'è anche ignoranza. Quindi la Rus Kiviana nasce quando c'è la conversione di Vladimiro I, passato, diciamo, la storia come il santo al cristianesimo. È un passaggio importante perché il cristianesimo serve a compattare il paese, la popolazione e le classi dirigenti. Dall'altra parte, riconoscere il cristianesimo e quindi Bisanzio come proprio interlocutore porta però anche a costruire una propria autonomia. Quindi c'è la nascita dell'idea di un popolo e di una nazione, ovviamente la nazione come era intesa nel Novecento, non come la intendiamo noi moderni. Ecco. Questa è la nascita, e appunto si parla di Rus Kiviana, cioè nasce a Kiev. E ecco perché Kiev è anche simbolicamente parte della Russia, che non vuol dire che debba essere una città russa, semplicemente vuol dire che c'è un legame che non può essere disconosciuto in questo modo. E invece la storiografia, soprattutto degli anni '80, poi dopo riaffronterò il problema parlando del cosiddetto Holodomor, questa storiografia vuole dimostrare che dalla Rus si passa alla Galizia, che è il cuore, ed è anzi neanche il cuore, è l'Ucraina di oggi. Cioè l'Ucraina, loro dicono, c'è sempre stata, e una sorta di, potremmo definirlo eliotropismo storico, cioè no, quella cosa per cui i fiori, no, si girano sempre verso il sole. Tutti gli atti della storia sono tesi lì, sono tesi all'Ucraina, a far nascere questa nazione. E per far questo, cosa si fa? Si contrappone l'Ucraina, la Galizia cristiana europea la Russia mongola. È un tema che Spengler sollevò quando disse: la rivoluzione bolscevica è il tentativo degli asiatici di mongolizzare l'Europa, di conquistare l'Europa. E questa contrapposizione tra gli europei e i mongoli è sempre rimasta. E ancora oggi noi, anche se non parliamo di mongoli, però quando guardiamo alla Russia, non noi presenti in questa sala, ma quando l'Occidente guarda alla Russia, guarda sempre come un nemico che viene a conquistarci. Per quanto sarebbe bello discutere, abbiamo fatto prima con Davide Rossi, che ha scritto un libro molto interessante sui mongoli, l'impero mongolo fu un impero molto importante che anzi portò delle grandi innovazioni da un punto di vista amministrativo, anche da un punto di vista del diritto penale. Ovviamente si parla di qualche secolo fa, quindi non pensate alla situazione attuale, ecco. Però per dire che noi siamo sempre abituati a vedere quelli che vengono da fuori come dei barbari, la storia è stata scritta così, ma le cose non stanno affatto così. Questa eredità kiviana, se da una parte viene assunta dalla Galizia, quindi da questo mondo, dall'altra però viene anche presa da quella che poi diventerà la Russia. Prima c'è la figura di Alexander Nevsky, reso celebre dal film di Eisenstein, che combatté contro i cavalieri teutoni, dall'altra parte ebbe rapporti con i mongoli, cioè tentò di raffreddare quel fronte. E per questo la critica che viene fatta, no, è la Russia combatte gli europei e però no, stipula accordi con i mongoli, anche qua ribaltando la verità storica, perché erano i teutoni che attaccavano i russi. Però questa cosa rimane, nonostante il fatto poi sia stata Mosca a sconfiggere i mongoli, e in due battaglie a 100 anni di distanza, 1380 definitiva, 1480, e a far nascere quella che poi sarebbe diventata la Russia. L'Ucraina, quella che noi chiamiamo Ucraina, ma che in quel momento no, non era tale, era divisa tra una parte, diciamo, che guardava alla Russia, e una parte che invece era governata, era sotto il governo di quello che è noto come, diciamo, l'Unione, il Commonwealth, Lituania-Polonia. La rivolta cosacca del 1648, passata alla storia come la rivolta del Natale, è una rivolta contro la Polonia che guarda naturalmente verso Mosca. Perché cito questa data? Perché questa guerra finisce con quella che è passata alla storia come la pace eterna tra Polonia e Russia. E se andiamo a vedere le divisioni che nascono da quella pace, ritroviamo parte delle divisioni che ci sono oggi sul territorio a Kiev, tra la parte che noi definiamo russofona e la parte più filo-occidentale dell'Ucraina. Questi sviluppi storici cosa dimostrano? Che i confini dell'Ucraina sono confini arbitrari che mettono assieme popoli molto diversi tra loro. Quando scoppia la prima guerra mondiale, la Polonia alla fine del Settecento è scomparsa dalle carte geografiche, la Galizia si ritrova nell'impero austroungarico e si ritrova a combattere contro un'altra parte, di quella che oggi è l'Ucraina, un po' come successe in Italia, no? In una parte con l'impero austroungarico, una parte con l'Italia. E in questo momento nasce anche un campo di concentramento austriaco in cui vengono rinchiusi cittadini di origine russa, Talerhof, che probabilmente produsse circa 400.000 morti, russi nel senso che intendevo prima, cioè cittadini, persone di etnia russa, di lingua russa, che però vivevano in un altro paese. Arriviamo quindi alla prima guerra mondiale e arriviamo ovviamente al 1917, alla rivoluzione sovietica. E anche qua c'è il tentativo di far passare quello che succede in Ucraina come un'invasione russa e la difesa della democratica Ucraina, ed è anche questa una delle tante fandonie, perché un pezzo di Ucraina combatte per la rivoluzione russa, la rivoluzione bolscevica. Quello che guida Lenin e tutto il gruppo dirigente comunista russo sono due punti fondamentali: da una parte l'autodeterminazione, dall'altra però le battaglie contro le ingerenze straniere, perché la rivoluzione, poi no, presumo che non mancherà nei vari corsi di formazione, la rivoluzione bolscevica si trova di fronte tutto il campo imperialista compatto più che mai. È in questo momento che nasce uno Stato ucraino che però diventa subito un protettorato tedesco. Questo lo dico perché quando nel 91 nasce l'Ucraina, l'Ucraina non aveva nulla alle spalle, non era mai stata uno stato nazionale. E in questo momento nasce come un protettorato tedesco. Poi la guerra va come va, e quindi si apre l'Ucraina entra come Repubblica Sovietica. Inquadrato questo, mi preme fare un passaggio sull'Holodomor. Perché lo faccio? Per due motivi. Il primo è perché questo evento è oggi ritenuto uno degli elementi fondanti della nazione ucraina. Perché? Perché appunto un popolo che non ha elementi in comune deve essere tenuto assieme da qualcosa. Magari precisalo un attimo che cos'è Ah, sì, perché no, me non l'hai adesso, detto, no, però no, ti lo so. adesso ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo. E dall'altro, il secondo punto anche questo lo citava Alessandro a proposito di Scala, il leader ceco che è stato condannato in primo grado per aver espresso un'opinione divergente su Katyn, è che ormai il dibattito storico viene azzerato dalla politica. Cioè c'è un Parlamento molto spesso composto da dei grandissimi ignoranti che non sanno neanche quando è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, o quando è nata, o quando c'è stata l'unità d'Italia, che decide che un dibattito storico è chiuso. Le cose sono andate così perché abbiamo votato una legge che dice questo. Un po' come se io votassi una legge che dicesse no, è la Terra al centro del sistema solare, c'è la legge che lo dice, fatevene una ragione. Allora, cosa succede? Che cos'è l'Holodomor? Il punto è questo. Negli anni 32-34, in Unione Sovietica, ma non solo in Unione Sovietica, ci fu una carestia che produsse, che portò dei morti. Questo non lo nega nessuno. Quindi la carestia c'è stata. C'è una tradizione che poi adesso tenterò di sviscerare, che sostiene che questa carestia è stata indotta oppure sfruttata da Stalin per regolare i conti con i suoi nemici. Chi erano i suoi nemici? I contadini, non i kulaki, tutti i contadini, e gli ucraini, tutti gli ucraini. Allora, quando nasce questa ricostruzione? Questa ricostruzione nasce in quegli anni in Germania. Nel 33, gennaio del 33, Hitler diventa cancelliere e la Germania inizia a produrre queste, che sono falsità, ma non lo dico io, sono, oggi si direbbe fake news, cioè foto false, articoli falsi. E due cose sono interessanti in quel periodo. Queste notizie vengono riprese negli Stati Uniti ad opera di Ernst, che era un magnate dell'editoria, quello che ispirò Quarto Potere di Orson Welles, il primo fascista d'America. Mussolini era stipendiato, guadagnava circa 1500 dollari al mese perché scriveva articoli per il suo giornale, e alcuni dei suoi giornali iniziano a pubblicare degli articoli scritti da Thomas Walker, che viene presentato come un grande esperto di questioni sovietiche, avendo egli vissuto molti anni in Unione Sovietica. Louis Fisher era un giornalista che aveva altre idee, cosa fece? Iniziò a indagare, tentare di capire cosa c'era scritto in questi articoli, perché erano articoli corredati da fotografie, e scoprì cose interessanti. Innanzitutto che questo Thomas Walker non era stato in Unione Sovietica degli anni, era stato in Unione Sovietica 13 giorni, era arrivato a Mosca e poi attraverso la Manciuria era andato in Cina, quindi non era mai stato in Ucraina, e le foto erano prese in momenti diversi, ce n'erano in estate, in inverno, ed era difficile, no, essendo rimasti 13 giorni. Non solo, ma alcune foto non erano neanche state fatte in Unione Sovietica, altre riguardavano la carestia del 21, cioè era una costruzione su nulla. Non solo, ma venne fuori che questo Thomas Walker in realtà non si chiamava Thomas Walker, si chiamava Robert Green, era scappato da un carcere dell'Idaho e nel successivo processo per una serie di lunghi reati, nel successivo processo che gli viene fatto, ammise di non essere mai stato in Ucraina e di aver falsificato le fotografie. Perché lo racconto? Perché molti testi che parlano e che accusano i sovietici di aver provocato la carestia si ispirano ancora e citano direttamente questo Thomas Walker. Conquest, che è forse quello più famoso, lo cita, non ha il coraggio di mettere il nome, ma leggendo quello che ha scritto Thomas Walker e leggendo quello che riporta Robert Conquest è lo stesso, ecco, non ci scappa. E nello stesso momento queste tesi vengono riprese in Italia, per la precisione dal console italiano a Kharkiv, che si chiamava Gradenico. E anche su questo c'è una riflessione da fare, perché Gradenico, tra l'altro, è stato citato dall'ambasciatore ucraino in Italia. Io cito, e lo faccio sempre e ci tengo anche a farlo questa sera, quello che l'ambasciatore ucraino si è scordato di dire. Nel dispaccio che Gradenico manda in Italia, che vengono letti da Mussolini, scrive, lamentandosi di quello che sta succedendo, la stampa internazionale, così sollecita nell'invocare la riprovazione universale contro la Germania, rea di cosiddette atroci persecuzioni degli ebrei, taccia pudicamente di fronte a questo macello organizzato dal governo sovietico, nel quale proprio gli ebrei hanno una parte molto larga. Non un solo ebreo si trova fra i colpiti da essa, dalla carestia, e al contrario, essi si trovano tutti grassi e ben nutriti sotto le fraterniali della GPU. Sono parole ovviamente folli, ma che spiegano il perché queste notizie false prodotte dalla Germania nazista vengono riprese. Perché in Italia c'è un dibattito, anche dentro il gruppo dirigente fascista. Cioè, l'Italia aveva sempre avuto storicamente un rapporto favorevole e positivo con la Russia, da quando era nata, prima con l'impero zarista, ma anche l'Italia fascista aveva un rapporto con l'Unione Sovietica e anche la Germania preiter-hitleriana. Perché? Perché da una parte l'Italia era il paese che aveva vinto la guerra, la prima, ma perso la pace. La Germania riteneva quel trattato di Versailles, a ragione, vessatorio nei suoi confronti, e l'Unione Sovietica era la paria d'Europa. Quindi queste tre erano tre potenze che oggi noi definiremmo revisioniste, cioè volevano ridiscutere gli equilibri europei e avevano dei rapporti politici, economici e anche militari per tentare di far fronte a questo problema. Tanto è vero, c'era, dicevo, questo dibattito, che l'ambasciatore italiano a Mosca, che si chiamava Attolico, scriveva dei dispacci molto diversi. Cosa diceva? Diceva: certo, è vero che c'è una carestia. Questa carestia, lui diceva, in parte anche colpa del governo sovietico che ha accelerato eccessivamente sulla modernizzazione. Però lui diceva: state attenti, perché ci sono anche quelli che nascondono il grano, che macellano gli animali per non consegnarli alle cooperative. Ed è vero, io riporto i dati della macellazione di animali che sono spaventosi, fu un calo impressionante, così come del grano che non veniva consegnato. Beh, Attolico era il rappresentante di quel pezzo d'Italia che diceva, più legato, diciamo, alla diplomazia anche liberale, dell'Italia liberale, che diceva: noi, e lo diceva ai russi, noi certo dentro in Italia combattiamo duramente i comunisti, ma non abbiamo problema ad avere un rapporto con l'Unione Sovietica. Attolico cercava di mediare, cioè di dire: guardate, anche la Germania, vedrete, farà così, no? Combatte i comunisti in casa, ma poi tenterà di trovare un accordo con voi. Questo non prefigura, come magari qualche pazzoide potrebbe dire, no? Un'internazionale rosso-bruna. Perché nel mondo, nei rapporti fra gli stati, ci sono questi rapporti. Gradenico invece rappresentava la corrente più fascista. Nel 28 Mussolini decise che i dirigenti del Partito Nazionale Fascista potevano entrare nella diplomazia italiana. Dico fascista perché poi la storia di Gradenico ce lo conferma. Lui si dimetterà per andare a combattere in Abissinia e poi, dopo la guerra, scapperà in Argentina. Questa è la nascita del mito dell'Holodomor, che invece è semplicemente una carestia. Tornano questi ragionamenti durante il maccartismo negli Stati Uniti, dicendo, come viene sempre detto, come venne detto nell'80 da 86 da Conquest e come viene detto oggi, nessuno se n'è mai interessato, l'avete nascosto, no? Come per le foibe, no? Ci dicono, ah, non avete... invece ci sono storici di sinistra, comunisti, che avevano scritto da molto tempo di queste cose, e durante il maccartismo tornano. Sono due gli autori che è interessante citare: Dashnuk, che cita direttamente delle fake news naziste, e la Dana Dharampay, che cita 20 autori che hanno parlato dell'Holodomor, quindi che hanno detto che ci sono stati dei morti decisi da Stalin, e fa una media aritmetica. Quindi c'è chi ha detto 15, c'è chi ha detto 10. E chi sono questi autori? Sono nazisti, collaborazionisti, gente che aveva denunciato tutto questo davanti alla Commissione per l'attività antiamericane, e c'è il solito Thomas Walker. E lei quindi stabilisce, facendo una media aritmetica, che i morti sono stati 6 milioni. Ovviamente non c'è alcun elemento storico, cioè non è che la storia possa procedere facendo le medie delle fonti, tra l'altro, che noi decendiamo come attendibili. Si arriva poi a Conquest negli anni 80, il cui lavoro rientra dentro un'operazione lanciata da Reagan, che ha alcuni storici che iniziano a scrivere libri sull'Ucraina, tentando di spiegare quello che dicevo prima, cioè che l'Ucraina è sempre esistita, non c'è mai stata una nazione ucraina, ma l'idea di Ucraina c'è sempre stata, il popolo ucraino c'è sempre stato, i confini ucraini sono sempre stati quelli. E dall'altra parte Conquest, che esamina questa, no, l'Holodomor, anche lui dice non nessuno se n'è mai occupato, e arriva a stabilire una cifra di 14 milioni e mezzo di morti. Totalmente inattendibile, primo, perché esamina semplicemente e solamente fonti di parte, fonti dirette, che per lo storico sono molto importanti, ma non sufficienti, no? È chiaro che se noi volessimo, adesso faccio un esempio stupido, capire cosa è successo a Genova e lo andassimo a chiedere a un dirigente della polizia, avremmo probabilmente un'impressione e un racconto molto diverso da quello che in realtà è successo, no? Niente di personale, ma ognuno racconta la sua storia. Il ruolo dello storico non può fermarsi ad un copia e incolla di quello che dicono gli altri. E poi calcola questi morti in modo anche abbastanza, voglio dire, storicamente inconsistente, perché non mi si può dire sì, il censimento sovietico dice queste cose, però degli storici occidentali ne dicono delle altre, senza citare chi sono questi storici, no? Perché poi voglio dire, su questo io mi diverto ogni tanto, adesso non faccio qua il nome perché il libro è anche fatto bene, però recentemente è uscito un libro che si occupa della situazione, no, in Ucraina, ripeto, dice anche cose interessanti, e quando parla dell'Holodomor spara 5 milioni, vado a vedere la fonte era un articolo comparso su Focus. Allora non si può fare storia e storiografia in questo modo. E oggi, no, dell'Holodomor se ne torna a parlare, però adesso, rispetto a quello che successe durante il reganismo, durante il maccartismo, c'è la legge. Cioè quello che sanno fare oggi è votare una legge per dire questa cosa c'è stata, grazie a Dio non l'hanno ancora fatta, questa cosa c'è stata e il dibattito storico è finito, l'abbiamo risolto noi, Parlamento. E questo è propedeutico a dimostrare che non ci fu collaborazionismo col nazismo. Si dice gli ucraini erano stati vessati dai sovietici, quando arrivarono i nazisti li accolsero come liberatori, poi si accorsero di com'erano i nazisti e iniziarono a combattere sia con gli uni che con gli altri. Prova di tutto questo qual è? Bandera fu incarcerato dai nazisti. E questa è un'altra delle grandi falsificazioni della storia, no? L'Organizzazione Nazionale Ucraina, l'OUN, aveva una rottura, ma al suo interno era una rottura generazionale, non era una rottura tra chi era pro contro nazista. Perché Bandera fu incarcerato? Perché quando entrarono i nazisti, lui si era convinto, e Rosenberg, che era il ministro del Reich, gliel'aveva fatto credere, che avrebbero avuto la possibilità di creare un proprio Stato. Uno Stato ovviamente alleato con la Germania, cioè Bandera nei suoi discorsi lo diceva chiaramente, no? Il nostro nemico sono i sovietici, perché lì ci sono gli ebrei, quelli non sono comunisti, sono ebrei e sono i nostri nemici e vanno sterminati. O voleva fare nascere un proprio Stato ucraino alleato della Germania. Rosenberg era, diciamo, per il ni possibilista, Hitler stroncò il dibattito assolutamente, per lui puoi figurarsi, uno era austriaco, la Galizia era roba loro, esatto. E quindi Bandera venne incarcerato per questo, visse dal 41 al 44 in carcere in una situazione che non era di quella degli altri detenuti, tanto per dirne una, poteva mangiare e pranzare con gli ufficiali delle SS e venne liberato nel 44 per combattere con i nazisti contro i sovietici. Tutte queste cose che vogliono presentare gli ucraini come vittima dell'Holodomor e quindi portati a sostenere i nazisti, ma poi subito che se ne ritraggono e li combattono, è la, così, a posteriori, la volontà di voler dimostrare che i due grandi totalitarismi, fascismo, nazismo e comunismo, vanno combattuti allo stesso modo, perché entrambi sono totalitarismo e sono la stessa cosa. Ecco, dopo la guerra, già da dopo la guerra, tutte queste cose partirono, perché Bandera venne esfiltrato, come si dice, salvato dagli americani, andò a vivere in Baviera e lì venne ucciso poi dai sovietici, ma comunque tantissimi banderisti e collaborazionisti ucraini vennero salvati, e i documenti ufficiali che venivano ripubblicati dopo la guerra erano epurati dalle parti peggiori. Adesso prima non ho trovato la citazione, però quando si parla del modo in cui si salutavano col braccio teso, no, dicendo slava ucraina, la cosa del braccio teso venne tolta. Quindi per dire che partì questo lavoro di pulizia, perché i banderisti dovevano essere usati contro l'Unione Sovietica, infatti questo hanno fatto, è partita una guerriglia fino agli anni 50, ma comunque anche successivamente l'Ucraina era uno strumento che veniva usato per mettere in crisi l'Unione Sovietica. E arriviamo, appunto, il reaganismo porta alle estreme conseguenze questa situazione, arriviamo alla nascita dell'Ucraina nel 91, e qua appunto, cioè, l'Ucraina nasce nel 91, non c'era mai stato uno Stato ucraino, e come ho tentato di dimostrare, nasce mettendo assieme popoli molto molto diversi, sono confini arbitrari che mettono assieme gente che che non ha tanto in comune, no? A partire dalla lingua, dalla cultura, dalla tradizione, anche dalla religione, no? I ortodossi, i cristiani, ortodossi divisi tra di loro. Quindi uno Stato, una nazione deve avere un collante, no? Se noi guardiamo le repubbliche baltiche, l'hanno trovato, il loro collante è la russofobia. In quelle regioni i cittadini russi di etnia russa sono considerati non cittadini, non possono votare. Cosa vuol dire? Che io definisco me stesso negando l'altro. Perché io sono l'Estonia e nessuno può fare un altro paese dentro, un'altra cosa dentro l'Estonia? Perché siamo tutti antirussi, è il loro collante. L'Ucraina nasce senza avere questo collante, senza avere una storia, delle radici comuni, no? E già la nascita dell'Ucraina lo dimostra, no? Quando nascono con la presidenza Kuchma del 94, le privatizzazioni, quindi arrivano sulla scena gli oligarchi, a differenza di quello che succede in Russia, sono oligarchi che hanno radici regionali, soprattutto nel territorio, quindi c'è una parte che guarda più alla Russia, una parte che guarda più all'Europa. E questo è il primo periodo dell'Ucraina, dal diciamo 91-94 nasce, ma dal 94 al 2004 è il primo periodo. Un'Ucraina che mantiene un equilibrio tra le due parti, ovest ed est, ma che ha dei dati economici disastrosi, il PIL cala, la povertà cresce e gli ucraini iniziano a emigrare, ed è questa una delle piaghe che rimane ancora oggi all'Ucraina. L'Ucraina perde popolazione perché è un paese che non riesce a crescere, cioè gli oligarchi, cioè quell'operazione che è la stessa poi è stata fatta in Russia, in cosa ha consistito? Nel creare poche persone molto ricche che hanno impoverito il paese, cioè tutte le strutture che erano state costruite dal pubblico vennero da un giorno all'altro regalate per niente a questi personaggi. Il 2005 è l'anno della cosiddetta prima rivoluzione colorata. Cosa succede? Diciamo che non aveva vinto il candidato che piaceva all'Occidente, e quindi lo sappiamo, non c'è neanche bisogno di dirlo, ma lì c'è un legame tra Yushchenko, la Timoshenko, che da una parte riescono a costruire un blocco sociale in cui rientrano anche diciamo una media piccola borghesia scontenta di come era stata governata l'Ucraina, ma dall'altra costruiscono un rapporto forte con l'Occidente. E qua l'Ucraina entra in 10 anni di grandi conflitti, in cui questo, io parlo di instabile stabilità, nel senso che alla fine un equilibrio rimane, c'è un'alternanza tra, diciamo per semplificare, l'ovest e l'est. Io tra l'altro adesso non lo posso far vedere, comunque ci sono i risultati elettorali che ogni volta sono uguali, no? Est da una parte, ovest dall'altra, ogni volta che si va a votare. E comunque diciamo sì, magari qualcuno guarda più agli Stati Uniti, però poi quando governa l'altro corregge, uno dà il premio Bandera, vince l'altro, glielo toglie, comunque riesce a reggere questo equilibrio fino al 2014, quando dall'esterno viene fatto saltare. All'Ucraina viene posto un opt-out da parte dell'Unione Europea, che ovviamente lavora per altri, lavora per gli Stati Uniti, e viene detto: se volete avere un rapporto con noi dovete rompere quello con la Russia. E questo voleva dire colpire direttamente un pezzo di Ucraina che non solo da un punto di vista culturale ma anche economico aveva rapporti stretti con la Russia, no? D'altronde è vero, qualsiasi economista può dire chi fa parte di un'organizzazione economica, di un'unione economica, non può fare parte anche di un'altra, perché altrimenti le due organizzazioni economiche diventano una roba sola attraverso quel paese, no? Quindi viene fatto saltare volutamente, perché qua arriviamo al tema geopolitico, il perché lo scrisse Brzezinski nel 96. Se vogliamo colpire, impedire che la Russia torni ad avere una proiezione imperiale, dobbiamo staccare l'Ucraina. Basta guardare su una carta, no, dove sta l'Ucraina, proprio in mezzo, no, tra Europa e Russia. È questa la paura atavica degli Stati Uniti, cioè che si crei un asse tra Europa e Russia. Questa paura, un asse che può essere, che può nascere perché un paese conquista l'altro, la Russia conquista la Germania o viceversa, o perché Russia e Germania e quindi Europa iniziano a commerciare. Se guardiamo alla storia del Novecento, l'intervento statunitense nella prima guerra mondiale e nella seconda, l'intervento in Europa, si spiega così, no? Nel 1944 viene aperto il secondo fronte in Europa, dopo che l'Unione Sovietica lo chiedeva da anni, e viene aperto quando? Quando è chiaro che l'Armata Rossa arriva non a Berlino, a Parigi o a Lisbona, se gli gira storto. E allora gli Stati Uniti mettono la zeppa e dicono: no, arrivate fino a Berlino, l'altra parte è nostra. All'inizio degli anni 2000 il rapporto fra Russia e Germania era migliorato grazie a noi. C'era un rapporto, diciamo, non militare ma economico. Economico che stava diventando anche un rapporto politico. 2011, guerra in Libia. Quella guerra venne fatta forzando, anzi non rispettando, la risoluzione 1973 dell'ONU, che prevedeva la no-fly zone in Libia. Su quella risoluzione si astennero non solo Russia e Cina ma anche Germania, per dire che stava nascendo qualcosa, che, voglio dire, con il Nord Stream e la decisione del Nord Stream 2 era ancora più importante, ecco. Questo spiega il perché della scelta statunitense per mano europea di far saltare quell'accordo. Qui su quello che è passato la storia come Euromaidan, sulle falsità, i cecchini, basta andare su YouTube per scaricarsi tutte le telefonate e possiamo non parlare. Ecco, prima... Vabbè, parliamone, perché non è così noto. No, no, beh, diciamo che in una telefonata, non mi viene il nome, era la... La parola è Ashton. Esatto, Ashton. Un ministro, mi sembra estone, disse: noi abbiamo prove che i cecchini sono georgiani, sono stati georgiani e sono quelli che hanno sparato sulla folla. E la cosa che emerge da quella telefonata è che l'Ashton non fu affatto sorpresa di quello che gli si stava dicendo, no? Cioè, voglio dire, se uno riceve certe notizie e non ne ha idea, un salto sulla sedia lo fa. Ma poi ci sono immagini, ci sono, voglio dire, la solita camminata di McCain sulla, insomma, c'è veramente di tutto. E poi le immagini dei poliziotti bruciati, cioè una organizzazione militare che è solo una informazione perversa come la nostra può giustificare, arrivando a dire che, che erano i poliziotti che aggredivano i manifestanti, mentre poi invece a Genova dicevano che era il contrario. No, va bene, va bene. E, ecco, prima di arrivare alla conclusione sulla situazione europea e mondiale, due parole su quello che nello stesso momento successe in Russia. In Russia, io cito i dati, adesso non mi dilungo troppo, li potete vedere sul libro, ci fu un crollo del PIL, della ricchezza, un aumento della povertà. Per quanto riguarda la democrazia, solo nel 95, presidente Yeltsin, 27 giornalisti uccisi, le elezioni del 96 con Zyuganov, che non aveva diritto di parola e che comunque vinse le elezioni che le vennero scippate, 93 bombardamento del Parlamento, quindi c'era da un punto di vista economico e democratico un paese allo sbando. Le cose cambiano già dopo il 96, prima ancora della presidenza Putin, e io penso che il momento di svolta fu la presidenza Primakov. Primakov è stato un grande uomo politico, io sono convinto anche più capace di Putin, sicuramente di Gorbaciov e di Yeltsin, ma lì non ci vuole tanto. E lui prese un paese che era veramente sotto attacco. Nel 98-99 alla Russia piove questo: una crisi economica con default provocata dall'attacco di grandi fondi di speculazione a partire da Soros e dal Fondo Monetario Internazionale, un attacco durissimo. Il terrorismo in Cecenia che andava e nel Caucaso che andava avanti, l'espansione della NATO a est e la guerra in Serbia nel 99. Cioè c'era la volontà, voglio dire, esplicitata nero su bianco da Brzezinski in alcuni suoi libri, di smembrare ulteriormente la Russia. Cioè non gli bastava aver distrutto l'Unione Sovietica, volevano staccare il Caucaso, la Siberia e fare una piccola Russia europea. Primakov, nonostante i problemi, nonostante una presidenza Yeltsin, così riesce però a mantenere ferma e a salvare la Russia, che è quello che ha proseguito nel fare Putin. Su questo io do la mia opinione, cioè Putin ha fatto, non è certamente comunista, ma questo nessuno lo dice, però se noi leggiamo quello che in quegli anni scriveva Zyuganov, lui diceva parte, anche pezzi del mondo della borghesia può, sotto la guida del proletariato, avere un ruolo importante per la Russia di difesa nazionale. In quel momento si pone un tema di difesa della sovranità russa, ma della stessa nazione russa. Ed è quello, diciamo, sbrigativamente l'ho detto, però io penso che la figura di Zyuganov sarebbe da studiare, non da così classificare semplicemente come nazionalcomunista o rossobruno. Esatto. E Putin, una presidenza molto lunga, anche contraddittoria, però diciamo che ha avuto fermo questo punto, cioè salvare la Russia, e i dati del PIL, della ricchezza, della povertà contano. Si dice: ah, Putin ha potuto beneficiare del prezzo del petrolio più alto, verissimo. Yeltsin poteva beneficiare dei prestiti del Fondo Monetario che andavano alla sua famiglia e a pochi altri fortunati. Ecco, quindi c'è stata una sistemata generale, mettiamola così. E nel 2007 a Monaco Putin pone anche il tema del multipolarismo, cioè di costruire un mondo multipolare, di dire basta all'imperialismo e all'unipolarismo statunitense, e in questo trovo una sponda con la Cina. Ecco perché dico è importante la figura di Primakov, perché lui ha speso tutta la sua vita proprio a costruire questo rapporto, dicendo che la Russia doveva guardare verso l'Asia, certamente anche verso l'Europa, ma era lì il diciamo l'interlocutore più importante, ovvero sia la Cina. E venendo e poi andando verso la conclusione, queste sono le premesse storico-politiche alla guerra. Quali sono le conseguenze mondiali? Perché ovviamente la guerra non piace a nessuno, la guerra si muore, non noi dentro questa sala, ma si è abituati, Iraq, Afghanistan, le guerre, Serbia, no? Jugoslavia, che le guerre no? Saltano solo degli edifici, nessuno si fa niente, i bambini non vengono toccati, invece nelle guerre i civili muoiono e nel Donbass sono 8 anni che muoiono civili. Quindi bisogna un po' fare uno sforzo per capire che cos'è questa guerra. Allora, prima dicevo, no, la volontà degli Stati Uniti di staccare Russia ed Europa. Ecco, il primo punto che emerge è questo, cioè questa è una guerra contro l'Europa, non solo contro la Russia, ma contro l'Europa, cioè contro la possibilità di costruire un asse con la Russia. È un asse, come dire, naturale tra chi energie e chi le consuma. Bradanini scrive nel suo libro, in un suo libro in cui riporta i diari di Nenni in Cina, lui dice: il rapporto Russia-Europa si completa con il rapporto con la Cina. Se pensiamo alla via della seta cinese, è questo. Ecco perché io parlo di Eurasia, che non è, come qualche disinformato pensa, sinonimo di rosso-brunismo, no? Eurasia è questo, un rapporto più stretto tra la Cina e la Russia, che guarda all'Europa. È chiaro che una situazione del genere emarginerebbe il ruolo degli Stati Uniti, che non è che sarebbero declassificati a potenza minore, ma non avrebbero più il ruolo che hanno adesso. E quindi è questo il vero motivo per cui gli Stati Uniti oggi stanno combattendo in Ucraina e hanno provocato quello che sta succedendo in Ucraina, e che si oppongono fermamente alla realizzazione della Via della Seta. E io l'ho scritto nel primo libro, prima dello scoppio della guerra, ma lo continuo a ribadire: il principale nemico degli Stati Uniti è la Cina, e il fronte principale della terza guerra mondiale, terza, diciamo, la guerra, quella che per ora è solo una guerra fredda, si combatterà non in Europa, non in Ucraina, ma nell'Indo-Pacifico. E però qua si incrociano le due cose, le due guerre. Perché si incrociano? Perché ho fatto una cartina, la trovate sul libro, che tenta di spiegarlo, cioè il Quad. Gli Stati Uniti hanno lanciato questo Quad, che è diciamo il coordinamento fra India, Australia e Giappone, e ovviamente Stati Uniti. È una scelta strategica che venne lanciata da Bush ancora.